del voce, voce, y del voce, se vayan oram tenorum, tenatril, pumeni niradum, kannal badum, adal dagum, bodai votum, jadai gattum, voce, y del voce, voce, y del voce. Say.